che sei? Pomponio. Hola. Ah, sì. Hola. Luca. Hola. Sempre sopra. Grazia. Graziano. Mi senti? Hola. Hola, hola. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Sopra. Hola. Ora 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, prova, una prova, Graziano, Graziano. Antonello, Pomponio, ci sei? Pomponio, ora, ora Antonello. Chi è avanti? Marino, ci sei? Tore, Luca, ci sei Luca? Pomponio, Antonella, ci sei? Antonella, ci sei? Torre! Torre! Da casa prova! Allora, a ci sei! Ora! Mormito sei! Chi è? Ebbene, oggi. Ciao Gio Mari. E allora, cosa vi racconti? Cosa ti racconti? Nulla. A casa. E il caldo, no? Ebbene. A Graziano hai sentito? Stava parlando sino a poc'anzi, non so cosa è successo. Graziano, come ti arrivava? Sta arrivando bene. 9.30. Ok. Forse vegetariente allora. A sentarsi, grazie. Sì, si è arrivata gente, Giovanni. La chiama se vuole entrare, là. Ci sei Giovanni. Da forza bisogna. La Lugrivia. E andiamo in Andia. Com'è? Va bene. Poi mi ha detto di. C'era anche Leoncino, ma adesso che è arrivato via bomba. Oh, è già andata. E vabbè, questa è la batteria più piccola. Vabbè, ascolta. Quando mi carica, la carregheggi, cosa vuoi fare? Purtroppo è così. Non so se ci sono più grandi, bisogna dare il computer. Se... A Luca bisogna dire se c'è la batteria più grande. Vediamo un po'. Una del ricambio che la prevuta. Vabbè. Solo che bisogna da ordinarsi questi, dargli li deve ordinare. Lui già li sa cosa fare, lui dice a lui già è già fa ordinare da lui direttamente, grazie. E lui cosa sa? Ah, voglio provare i cuffietti. Prova, va, prova le cuffie a vedere, vai. Già so chi non chi, c'ha ma quando c'è pronto. Qualcosa sempre a incasso, quel tappo dove c'è le cuffie. Pensi c'è che è come apposta il microfono, capito? Apposta il microfono, metti là quello lì, le cuffie. Apri chi sul tappo, con coltello lo apro, non apri a mano. Boh, cosa vesticchia grazia? Che è roba nuova, capito? Ma dovete aprire, dovrebbe aprire. L'ho aperta, adesso le provo, aspetta. Prova! Ok, ma l'ha portati sì, faccio vedere. Una, due, tre, prova, avanti, corri. C'è la portante, grazie. Ciao Maria. Oia. Ciao Mar. Oia, mi senti? Maria, ci sei? Hola. È la portante, grazie. Grazie, c'è una portante. C'è una portante! Non funzionano gli circuiti! Non funzionano! Forse funziona, ma entrano bene! Entra bene e si spegne anche la radio, Te lo chiamendi, non mi intendi? Grazie, cosa vuoi ti dica? Se sono le sue dovrebbe si spegnersi la radio! Mia, adesso le infilo e sciampagli, le provaciamo! Senti. Adesso sì. Adesso già ti sento. Prova. 1, 2, 3, prova avanti, Graziano. Bene va adesso. Ehi, adesso già ti sento. Però dice, ma tu sei un innano di auricolare. Ci sarà la sera, è pratica, già tagliata. Che cosa? Quella calzettina nera che c'è nel cuore. Ah, chi se mette a roba in ossidi, gatta? Usala senza quella calza. È pratica, si è tagliata, basta da là. Che cosa? Ma... Fate la pazzina, a me pure ci mi è praticata. Lascia in favia. Infatti se la giù lampata e la uso così senza la calza, capito? Eia, mi aspetta bene anche l'auricolare, ha una restrizione di peggio, farò. Ma usalo senza auricolare, dai, che va più bene, va benissimo, grazie. Va bene. Allora me ne lo davo, io mi faccio più soldi. Cava. Eia! Me non l'hai fatto, se no me ne mangia la reggia. Infatti, cavanina, fuggitini. Usa senza auricolare che va bene ugualmente, dai. Non le uso con l'auricolare. Tu ci mica di ballo, ti imparo di più. Va bene, dai, grazie. Tranquillo. Ma vanno bene, dai. Già va bene, già. Almeno c'hai il cambio, dai. Almeno c'hai il cambio, va bene, va bene. Così che è tranquillo, ok? Io. Più meno reggio, chi è più alto? Già sembra che vada bene anche con questo tipo d'antenna. Vediamo stasera quando entrano quelli lì. Quell'altro è più alto perché c'è la batteria più grande. Beh, se tu ne togli la batteria e lo misuri senza batteria, tutti i tuoi sono precisi. Già non so come sono precisi. Per forza deve andare bene, a Maragana pure. 7600 va benissimo, dai. Poi se ti ha sentito anche cosa, Leoncino, a via Baldezza, vuol dire va benissimo. Ehi, aspetta, scusa che vado in ufficio. Chiama, va. Sta a posto? Ha fatto quel colpo. Non ho capito. E la scatola l'ho messa dove c'ho gli altri barattoli. Prova a farla, voglio vedere che sto camminando. Ma in momento di sì, perché ti sento a tratti adesso. Ehi, nel terrazzo sono, che ci ho messo il cacciabucci a posto. Ah, ecco, ya va bene. Sentito, ma... ma mi senti? Adesso sì. Certo. Sì, a fondo scala qua. Cosa? Cosa hai detto? Ha parlato hai? Ho detto, cosa hai detto? Sono a fondo scala. Eia. Non sei uscito. Adesso sei uscito a tratti. Prova adesso. Adesso va bene. Già ti sento, parla un po' a vedere. Come? Affavità, a vedere come ti esci, il passaggio più lunghetto. Che lungo che devi fare? Che passaggio lungo devo fare? Cazzo, grazie, non so che io. Ma chi se lo sei sentito? Tore nemmeno. Luca, ma i comi non è manco, tutti i drumisi so. E allora, li mangiato il drupo a mezzo di torre, chissà cosa si sta tutto in colpo. Ma chi se va a parare la fava? Ma chi se sarà la buccia di fava, va a prendere un bozzetto, capito? E allora, noi che al dicesce di la bassa Graziano è un po' Gaggio Maria, a te poco, Ma dici che a te ti fa la madibanza, la fava, e si è passato maizio. E allora, certo, ero buzzato di vivi che su caffè un cuscio mi ha fatto vivi. Allora dove di balsa? Cazzo che ti ha subito in bagno, che buono un caffè. Strano, non me lo faccio. Cagliare, ma la mattina ci ho provato a posto di te, ieri però. A comprare quel latte, quello sbarato, il cartone piccolino ho preso, a vedere se funziona. E non me l'ha fatto venire il cuccio, quel latte che è scremato. Devi prendere quel latte che può bere i diabetici, non mi ricordo come si chiama. C'è un latte speciale che noi possiamo bere tranquillo, mangiarlo come vogliamo, capito? Non mi ricordo come si chiama il nome. La scatolina è marrone, ho preso una di quelle da mezzo litro, è migliore a me la prima. Falta sempre un gusto in te. E ieri mattina, quando ho fatto il biscottato, me l'ho provato, tanto sono in casa. E non me l'ha fatta così. Ma va, stasera, ancora rientra, sennò la mandava a pigliarmi il bado male. Così, a posto di rudere, se non mi fate troppo una cosa, perché... Per si via assai, mi frutta. Io te non le bevo, a dire la verità, qualche buccia. Però io mi faccio, se ogni tanto, magari uno o due volte alla settimana me le faccio, però mi faccio la camomilla, capito? Te non le bevo io. Bevo solo la camomilla sempre, ogni tanto, due volte alla settimana. Il resto la mattina io mi prendo un bicchiere di latte, con una fetta di biscottate, me lo scaldo e mi bagno una fetta di biscottate. Tutte le mattine, solo, e fino all'ora di pranzo. Io non mi mangio, ogni 2000 di più, solo il tè. Invece questo latte pare che già funziona, non mi va di mica. Allora se rientra la manda a segnare. E domani mi posso dire. Ehi, ehi. Bene, mi senti a me? Sì, ero lì nel terrazzo. Prova qua, adesso sono dentro il terrazzo. Che cammino fa come quello là che ti Adesso stavi uscendo atrás. Io sto con gommino mi dietro, la parte dietro in cameretta, grazia. Sto con gommino mi. Sì, io non sono con gommino. Ma adesso sono vicino e già ti sento bene. Infatti adesso ti sento bene anch'io, Perfetta, perfetta la radio. Aspetta un minuto, Giovanni. Chiama, chiama. Cos'è? Cos'è, grazie? Giusta la mia figliura, domani me lo compro. Ah va! E se prendi la doccia. Domani te lo fai comprare, vai. Domani me lo faccio comprare. E anche tra, che la travaglia in pizza va. Domani, aguanta, domani va. Dove sei adesso? Io credo, vanno bene, va, vanno bene, grazie. Va bene, perfetto, ok. Ti sento perfetto, perfetto come quello là. Infatti, o per quello chiedi anche agli altri, senza dire niente, capito? Aspetta, rientro subito. Avanti. Indietro. Avanti, sì. I carabinieri di Altara. Non sto uscendo. No, sto uscendo. Avanti, chi vuole entrare, la porta è aperta. Cos'è? Grazie. Stavo telefonando a Portobello. Non c'è posto ancora. Grazie. Copiato. Ma non mi senti? Se tre volte ti ho chiamato. Io mi lascio sentire, hai la tangente. Adesso mi senti. Ho detto che non c'è spazio a Portobello. Ah, così ti ha detto, non c'è spazio. No, perché stanno prendendo poco. Ma si trova a chiamarmi a fine mese. Tu fai così allora, a fine mese, pigli e glielo chiami. A fine mese, la chiamata. La tutta la signora e la saluta da tutta la tua banca. Guardate il rispetto che ha spiccato, la ma vuole bella fattura di quanto ho pagato se non vuole l'ultimo, se no la accudi già lo credo già accudi che conto sei che vuole entrare io mi senti sei mezzo al QFM sì. Ti ascolto basso, sei in mezzo al QFM. Io non lo sento, Adesso ti ho sentito, cosa hai detto, Antonio? Stavo dicendo che adesso già ti sento, poco fa lo ti sentivo basso basso. E adesso mi senti bene, però ho spostato la mano, dall'altra parte ti sento. Com'è adesso, mi senti bene? Allora, bubu. Parla, Antonio, che mi sposto qua, vedi? Ciucucù, ciucucù, ciucucù. Da qui già ti sento. Io Maria, lo senti? quattro. Ehi, già lo sento, ciucu. Ah, già mi senti tu? Già non ti sento, ciucu. Allora, bubu, pensavo non mi sentivi più, ho dovuto cambiare antenna perché l'altra c'è stazionale, devo sistemargli, comprare il cavo nuovo perché è tutto buscio male. E allora ci vuoi il cavo nuovo. Come lo sente Graziano? Passo, lo sento, ma già lo sento appena. Mi sto usando l'ex 300 adesso, la verticale. Ah, ecco. Gomino non ti sentivo io, Sono passato davanti, adesso davanti ti sento, ma che in cameretta dietro non ti sento, Dalla ombra quella, già lo credo. Grazie a tu, bene lo senti. Grazie, ogni tanto ti pare che sono Graziano, okay? Vuol dire che sta facendo cose. Quello è un maniaco, manico sessuale. Senti, Antonè. No, e dove sei adesso? Grazie. Non ti rispondi, oddio, ti senti. Spostati a vedere un po' dal punto più buono che c'è, no? Me lo senti qualche mezzo al QRM? Antonello, mi senti? Sì, ti sento adesso. Parla a vedere che mi sposta, ben se ti senti. Oh, capito. A parlare che lui si sposta, a vedere se ti senti, ha detto. Sta parlando, non c'è problema. Dimmi se mi intende. Prova! Prova! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, abbaila un poco. Sentito l'hai. Lo sento, da dove li sento un poco fa, da lì lo sento. Grazie, che ci sono i punti morti, già lo sai. E poi da uno all'altro può variare anche la situazione, capito? Quella là è al massimo, questo è al minimo, renditi conto, grazie, capito me albero bene. Ehi, aspetta che a Torello gli ho chiesto se mi sente bene da qua. Passo, ti ascolto, ma già ti sento. Mi sì. Ehi, va bene, grazie, ma cosa vuoi pretendere, non so io, a vedere se mi senti va bene da questo punto dove sono. E ti ha detto che ti sente bene. Ehi, adesso provo con l'altro, aspetta. Attore, aspetta che sta cambiando. Ehi, va bene. Adesso ho attaccato il portatile. Da qui mi senti bene con questo, ho lo stesso. Adesso non ti sente. Attore, non mi senti. Non ti sente. Attore, non mi senti da qua? Attore, non lo senti? No, non lo sento. Non ti sente? Attore, non mi senti da qua? Adesso sì, ti sento basso, ma già ti sento. Senti, Tina, tu che sei forza e forza, ma adesso c'ho l'altro, quello con l'antennino fine. E da qui ti sento sempre io, Cosa vuoi dirica io? Mi sto usando adesso il portatile, sto usando con l'altra antenna. Adesso da qui ti sento, prova! Oh mio! Dimmi tutto! Ti ho detto, guarda se mi senti che mi sposto! Parla tu che sto spostando! Sto parlando! 1, 2, 3, 4, 5, sono qui. Qui qua, mi senti da qua? Sono tutto gonfio. Che sarrasta di frequenza? Basta che ci fossi un palmo e non ti intendo più. Ciao Mario. Ehi, cazzo, ma cosa vuoi pretendere con Gomino da dentro casa? Ma cosa vuoi pretendere, gatto? Che troppo qui ti sentono, gatto. Ma lo sai, no? Bologna bisogna fargli un calendario. E volante ne serve per arrivare a tutti. Hai capito bene? Ma dico, prima hai che ci buso nella cucina, in la bomboletta. Che lo senti a lui, ma ha disturbato lo stesso. Sia uno che con l'altro, sia uno che con l'altro. Secondo me anche dipende dalle giornate. Non è solo il fatto dell'antenna o del gommino. Secondo me anche le giornate. Tu basta spostarti di un centimetro e non ti sentono bene, e non senti bene. Catta, ma non hai capito la questa frequenza com'è? Diglielo Antonello, diglielo Gasper, non ti entra in zucca che tu mi sindono. Lo so, se non mette l'antenna sopra il tetto cosa vuole pretendere? Dentro casa non può stare girando di camera in camera, no? Ma è da convinto che si viene, se tu ti la debagna, capace magari in bagno ti sente. Chi è? Chi è? Magari se tu sopra il tetto mi sente sì. Chi è? Chi è? Come on! Cosa ne so con cane cane lui? Meno di, so che stai cane. No, che vuole entrare, lì va a entrare, non entra nessuno. A me si entra e va di piacere, se non entra e va di piacere un mattese. Cosa vi? Uno se vuole entrare, entra, no. Perché sta questo graziano Antonè? Cosa bisogna fare, ragazzi, non so chi, boh. Aspetta un attimo, mi stai graziando, la bomba la gente, ma la bomba la Eia, aspetta che mi hanno chiamato. Eia, Eia, Antonè, Bonio, Mosso sì, Elabè, Cucucciù. Chi è, chi è? Avanti. Babui. Avanti che vuole entrare. Io non sento nessuno, come fa a dire avanti un po' entrare? Grazie! E se si accende la luce, no? E non vuole entrare nessuno? Boh, mica si accende la luce. Il boia. That's right. No. Ha detto se boia. Ehi, se vuoi entrare, entra, è comodo, la porta è aperta. Il boia. Ma lo sento, tutto scarico e sento. Elettrizzato, il boia. Non stai uscendo, tutto rumore, sì, bello bene. Il boia. Non ho niente da fare. Il boia. Tutto scorreggiato, stai uscendo. Gio Maria. Te bava. Ma ti conosci un vecchio, no, io. No, non lo prendo. E tu non senti nessuno. La sopra modulato. Gio Maria, mi senti? Già, non ti sento. Non mi senti, no. Dille a Graziano. Hai un piatto di macaroni. No, se tu lo soprammodulo, come faccio a sentirlo, Graziano? Io come faccio a soprammodularlo se non lo sento? Che parli più forte. La comuno. Ah, se lo senti tanto e tu sì. Io sogno. Adesso ti ho sentito in questa posizione. Beh, Finocchio. Già va bene. Finocchio, dove sei? Ho sentito un Finocchio. Antonè. Finocchio, dove sei? Gio Maria, mi senti? Leoncino. Non sono Leoncino. Gustavo. Cosa Gustavi? Un piatto di macaroni. Ma una sabana ora mi tiro di zendi. Con chi stai parlando? Con Muro? Signor Gustavo. Avanti. Cosa stai facendo? Una mano all'altra. Questi te ce ne regatti. I ciccioni in culo, escili. Anche quelli, stai attento. Se vuoi il Viagra te lo do. sei barrato. Vedi, Ari, Pomponio. Imbarrato a Pomponio. Ma il Pinocchio non c'è, no. Grazie a... Aspetta un attimo. Ebbene, c'è Mario. Aspetta un po', 5 minuti. Ehi, avanti. Silenzio. Babbo Natale. Marino, tu sei. Allora che può essere, Babbo Natale. Buongiorno. Ehi, sai che accendo quest'altra radio che c'ho qua per sentire sento. Capito, Dai. Aspetta. Marino. Avanti. Ma mi senti? Certo ti sento. Bene, mi senti? Ti sento forse chiaro, benissimo. Bene, bene, come poco fa. Ma la modulazione è più bella, più pulita questa. Più pulita questa? Sì, perché non l'ho fatta con lo gestatore, capito? Ma non è gommino, no? Non gommino, però è l'altro portatile. Bella modulazione, bella chiara, pulita, ottimo. E anche l'altra è bella, sono uguali, la stessa marca. Già, va bene, dai, va bene, va benissimo. Nessuno è entrato, no? È nato meglio, e ti sei appena spostato sicuramente, adesso ti ho sentito un po' male, Ti sei leggermente spostato, dimmi la verità. Grazie, rimani fermo, se no ti sento male, scusa. No, già sono fermo adesso. C'era Leoncino e Antonello poco qua. E Gio Maria si è assentato che è entrato. Ah, va bene allora, dai, già va bene, anzi va benissimo. Io che è stato con tu metro controllo, che è stato con l'intendino di Bacchisa in alto, già va bene. Adesso domani, se mi ricordo, una settimana vado a prendere il cavo, prendo il cavo del PL, così me lo collego, me lo metto qui all'interno il cavo e tutto va benissimo, dai. Cos'è? Lasciai, mai si sente. Io ti metto un po' con il mal di banca, non ti entrare, hai altro raggiunto in banca. E magari hai mangiato qualcosa e ti ha fatto male, magari sei indigesto, grazie. O c'è quel virus in giro. Secondo cos'è, o il virus o poi hai mangiato qualcosa che ti ha fatto male. Gamberone hai mangiato. Oggi ho fatto poeta con la salsiccia e arcelle agli prezzemolo in cacciaruga. Aspetta vada a finire. E vai. Allora, chi è? Come mi senti adesso? Bello bene. Sento benissimo. Ma ci sto fischiando. No, aspetto. Sta fischi, sì, Mari. Sto staccato, va. Mi sento benissimo, grazie. Adesso sei uscito bene. Più forte mi senti? Sì, sì, come modulazione più forte, più chiara, pulita. Ehi, questo è da tavolo, da. Andate, va benissimo. Ehi, canto un pugno, Cioè, canto? Teste. Non ho capito. Quanto un pugno. Ho capito. Tu non vuol dire, va. Quanti canali c'ha? Beh. C'è un bel video display enorme, tutto azzurro come il cielo. Bella legge, C'ho quattro stazioni a disposizione, frontali. Ma giugano oggi, Oggi sono veramente stanco, forse la giornata. Vabbè, a me adesso questo periodo incominciano le giorno per il caso, fra allergia, una cosa all'altra. Mi sento stanco. A chi si avvicina in aprile? Aprile dolce dormire. Già lo sai che un bagliente si accascia e si trombe. Lo so, a me si sta avvicinando. Piano piano, proprio, stanchezza una stanchezza favolosa, cazzo, vabbè, già passerà piano piano, dai. E poi cominciano le allergie perché escono i polline dei fiori negli alberi, che è allergico, surrudeggia, o si abbatture già tutto, o va sonno, oppure ci escono i brufoli. Io dovevo prendere l'antitamina, compravo ancora, non ne ho preso, sto aspettando a prendere l'antitamina, ce l'ho già pronto. Aspetto un altro poco, aspetto, perché ogni tanto smetto, ho capito? Vedo smettere, se mai che la voi magari va di biggio. Adesso a fine mese iniziamo, gira gira. Adesso vediamo. E quello che gli fa l'effetto che non tira. E un sacco di allergie fa a aprile. Ma con la vitamina che ho io non mi va di nulla, non mi va nulla. Non mi fa, non stiamo dire niente. Se non lo prendo sono con un asa trombone, hai capito? Lo prendo la notte, così la mattina sono tranquillo, sereno, senza problemi. C'è gente che va nei prati alla ricerca dei fiorellini che si trasformano. Un sacco di cose fa la primavera. Io mi trasformo di farfalla. Sono quelle che gli sfioriscono la pancia perché durante l'inverno c'è la freddo e comincia a vedersi il palloncino e tante cose sono. È una cosa bella, no, grazie a voi. Alla voi, tutti chi ne sfornia sei gemelli, hai fatto e hai finito, sia di una cosa che sia dell'altra. Sì. Grazie, mi stai arrivando troppo forte di modulazione, abbassa qualcosa. Ti bacio di chi so, sono 1,56 e mezzo, 57, no male, 67, 68, là, e mezzo. Facciamo una modulazione di boh particolare, fortissima. Sì, perché ho mangiato spinaci questo periodo. Me ne sono accorto, Me ne sono accorto, per quello sei così forte. Sì, lo esageriamo, un po' di boluccio già sono. Ma qualcuno ti ha chiamato? E avanti, e non c'è sta nessuno. No, sono 27, c'è qualcosa, ma non lo so. Ce l'hai accesa? Cosa? Alla 27, no, l'ho levato, ce l'avevo stamattina qua, e non vedo un cane. Io ho acceso, non c'è nessuno. Oh, mi dava qualcuno a prescendere. Guarda il fischio. Prima alla 27 qualcuno ha fischiato. Ah, e quel fischio mi sembrava di conoscerlo, Ce l'ho sentito già. E chi è? Babbo Natale, no? No, mi barriamo il fischietto di Tore. Tore chi? Non risponde, è vergognoso. Ah, chi ci va a fare dare dei bugni, se no lo fa vita. Tore, Torecino, è vergognoso, capito? Che timido è. Lui è un ragazzo quasi per bene. Bisogna comprare lecca lecca. No, il giuppa ciuppa. No, quello è di Antonello. A lui va bene, ciuppa ciuppa. Oh, boh, caggiuto, boh, è parito. Era leoncino. Era bisogno a mangiarsi di macarroni. Boh. Raga, mangiare i macarroni a quest'ora. Leoncino, dici, tutte le ore sono di Dio. Canta fame, magna. E vabbè, quello già c'ha, fa bene, c'ha ragione, ma a quest'ora, allora hai bisogno, Bruce. Sì, magari un antipasto quello, cosa vuoi che ti dica. Se tutte le ore sono buone per mangiare, lui ne approfitta. Sì, a razza di nulla, fa mangiare. Allora hai bisogno, non mangio mai a quest'ora. Io neanche, Vediamo se si sente Gio Maria. Gio Maria, rientratosi. Un attimo, grazie, c'è gente. Eia! Ok, c'è gente, Marie. Aspetta, mi assento, 2 minuti. Marino. Ok, dai, ci vediamo dopo, Gio Maria, non ti preoccupare. Adesso mi ascolto, grazie, vai. Hey you. E lui da due luello, e che io io. Più basso, grazie, più basso. Sì. Forte! E così la preparare, adesso sono qua, io vado, come passi, dai. Già se lo scolto su qualche cosa, dai. Anche io devo salire anche da preparare la mano. Dopo ma... Tu prepara come preparare, adesso non scolto, come passi, dai. Sì, adesso giro per questo, dai, sono... Tengo acceso questo e guardo un'altra cosa, dai, vai. Tutto bene, mi senti, Marino? Benissimo, grazie, benissimo, non preoccuparti. Sempre bene, mi senti, Marino? Buonasera, signor Bacchizio, benissimo anche lei. Benissimo. Attento, Marino! Dimmi... Non mi tosci! Da voi? Non mi tosci, Mari! Sei addormentato, sono allora, vado un sonno, oia, sei qua. Si sente che sei dormito, mi. Ma si sente? Sono mosso. E tu vai a dormire, ho dormito, sì. Mi sto mosciando, allora. Ma non vuoi un Viagra? Non ho bisogno, grazie a Dio, non ho bisogno. L'hai compreso. Se ne vuoi, te ne vendo io, mi. E lo mando? Ma del scatone di voi. Cos'è? Fa la svesi. Ma chi si ho? Buonasera, avanti. Hai tutto a posto con la commissione, sì? Ha visto tutto, ha fatto le foto meravigliose, dai. Io stamattina sono passato a pigliarmi il capo, invece negativo ne aveva solo 18 mesi, mi ha detto venga in settimana che adesso lo sto giovinando e sto a prendere. 18 mesi dunque non ho preso nulla, se no avrei preso dal capo almeno 25 mesi con i fielli e avrei collegato con la tua con l'antenna avrei collegato. Dove sono andato io? Sì, quanto l'ha pagato? 7 euro. 3 euro? 7. Posso chiedere, adesso non vado, adesso vado. Mi avvicino o venerdì mattina o sabato mattina mi avvicino, così se c'è il capo lo prendo e i santieri. Ma così attacco la tua anche, capito? E ciccia. Si può? Avanti, buonasera. Sì, buonasera anche a lei, signor Marino. Catta che si sciogavo di zotto, 20, 30 metri. Signor Bacchi, ma ci si vede che fare di là? Una cosa di là, no? No, frassimato, vicino, il nostro squalo. No, ho mesurato 25-20 ce ne vuole, così utilizzo la... Quell'antenna del Bacchino utilizzo, ho capito. E ciccia, adesso l'ho già appesa. C'ho uno spezzone, ma mi trovo le mani fuori, capito? Invece con 25 metri faccio fare il giro e collego a questo. Tutto qui. Avanti, comunque, buonasera. Sì, gli ho detto buonasera, mi guardi a lei. Cata, vero, signor Bacchi, buonasera. Ma ti sei uscito da Vatto? No, ero in sala, stavo facendo cosa. Anda a vedere, catta, ti pare a te che possa dormire. Anda a vedere. Io un'oretta me l'ho fatta, un'oretta buona me l'ho fatta. Mi ha chiamato Morfeo e ciccia, su che andiamo. Avanti, va chi? Ehi, ciao, Tore, buonasera, ben ascoltato. Allora, tutto bene, Tore? Sì, tutto bene, già è tutto bene, sì. Catta, no, è tutto bene, sì. Meglio così, meglio così. Hai visto, piaciuto tutto? Sì, mi piace, sì. Però adesso devo andare là e chiedere. sperando sempre che non si ravendia ugualmente con l'agenzia. Passare 20 giorni, ecco. Perché dice che ha telefonato il padrone stasera, forse qualcosa non riesce ancora a rosicchiare da quello che ha detto. Oh, andava bene, va bene, se lui mi dice che sta scadendo, io domani mi avvicino in banca e comincio a chiedere. A chiedere non si paga, mi sono, chiedere non si paga, poi è tutto da parlare con quello lì, capito? Da parlare con quello lì. Anda bene, mera, carino, avanti. Ok. Ma quando scade? Questo mese quella roba? Sì. Sembra che sia questo mese, quando ho capito. Non ho chiesto proprio di specifico quando scade. Lo penso che sia questo mese. Una volta che scade può fare. Se invece hanno comprato adesso, con un po' di soldi. Esatto, perché abbiamo sentito la scadenza. Comunque conviene avvicinarsi, non farlo. Se tu non avverti a loro, loro automatico ce ne innova, capito? Sono furbi. Ma non penso che quello che sia meglio di tutto in mano è più furbo di lui, perché mi sembra che sia un ingegnere o un architetto, una persona un po' alfa. Perché le agenzie fanno così, capito? Fanno scadere, poi se il proprietario non si avvicina, automatico si rinnova il contratto direttamente, tutto qua. Poi Ettore, avanti. No, non è così, cioè, devono aspettare il coso come si dice, del proprietario. Se il proprietario, anche se non si avvicina, per loro è chiuso il contratto, ce l'hanno sino a quel giorno, vengo preso. Come avevo fatto io per la casa di mio padre. Il contratto era. Poi mi hanno chiesto, dice, rinnoviamo o lasciamo cadere? E io l'avevo detto, lasciamo cadere. E ho preso. Ma è cambiato, le cose, dai. Ok, bene. Ti è piaciuto a te, sì? Sì, abbastanza. Se riesco a pigliarla, me ne andrò anche via a abitare. Guarda, se la prendi fai 13, to. Fai 13, sta bene tu, sta bene tua moglie e tutti quanti, fai 13, non 14, 13, perché la zona è bellissima e sei vicino anche, e c'è tutto, e poi già lo sai, poi con calma, gli altri lavori le fai con calma, hai capito? Tutto entrare, dopo, piano piano, avanti va chi? Tutto iniziare, ho capito, tutto iniziare. C'è un minimo di piazzale. Ne avrà 300 metri, tutto fatto in cemento. C'è due pericolati che c'è uva per un anno. Quelle pericolati lì. Qui sono le piante da frutta, c'è del di tutto. Poi se vuole mangiare ghiande, ma lì ci sono anche le ghiande. Ci sono tre alberi ci sono le ghiande, enormi. Ma c'è un fresco sotto in estate che se lo vuole mangiare. Poi se vuole mangiare ghiande, mangia anche ghiande. No, da chi? Ah, sai che le ghiande le puoi vendere a chi c'ha i maiali. Allora ti metti a raccogliere le ghiande. Oh, ciao Tore! Sì, buonasera anche a lì. Caspita, la voce è da Ciambato. Ciao, ciao, ti ho visto su di Max, Tore! Sì, ha dormito in vano e terra lì. Ciao, su di Max, ieri, ti ho visto, la pesca del squalo. Alla sorte, per la linguaccia che c'hai, vero signor Bacchi? Lascialo finire, buonasera Luca. E così è. Così si sta allenando Luca, capito? Si allena, mica gioco in palestra. Buonasera. Beh, l'altro mio, ora intendi l'altro, come te ne entra subito, ma la sorte che non lo puoi lasciare un attimo che subito bronchiti. Sì che ci sono da prima di voi io qua, ma no beh, figlielo tu Mari. Ma tu mi siamo io Marino! No, ti sei sbagliato. Ti sei sbagliato anche Costantino e Noginove. E uso Costantino! Finirà! Giù io! Catta linguacciuto! Vero Mari? E io poco se Luca non lo sento. Devo segnare, non ascolto, poi è stato. L'altro non vedo, l'altro già lo vedo, non l'ho visto in palestra, si sta allenando. Lascia va, però non sopramodulare a Marino. Catta, Mari, ti stava sopramodulandomi. Ma si becco fuori, ti metti a sei giù, ti metto. Beh, non lo sento, Marino, adesso sì. Esagerata, te sei giù mi metti, catta. Uè, mi chi peso più di te, mi. Allora, sei volte che vai. Ma quindi sì, va, ma cosa me ne scegli, avanti, da chi? No, vi sopramodulate, una ravuta. State calmi, una volta, quando vi si passa... parlate. Io sai sto, sai cos'è che la scusa che sono più piccolo ne stavo approfittando, ma già diventerò grande, la faccia vostra, avanti Bacchisio. Buonasera Graziano, ben ascoltato, dopo 2 secoli e mezzo. Avanti, riprendi. Ciao Bacchisio, come mi senti? Bene? Il russo Graziano, mi sembra che si sia toccato, cos'è che hai combinato? No, stavo provando la cosa. Una cosa stai provando e questa cosa funziona bene allora. Non intendi che va alternata? Quella è l'aerosol. Qui non sta neanche arrivando. Questa è l'aerosol. Ma lo vedi com'è strano che sta parlando? Cata, non uso guiu. Ma c'è anche l'ascolto Cassiano adesso. Anzi, la forza, ma cosa intendi? Cata l'aerosol, com'è? Ha collegato la radio alla radio solo, dunque sta facendo la radio solo alla radio, capito avete? Riprendi Marino. Marino! Oh, eccomi! Aspetta, cos'hai? No, non vuoi più riprendere. Aspetta che facciamo entrare a Luca, va. Luca! Ma Marino lo sento a traccia, cioè, no, lo sento, non lo sento. Ma lo sento bene, sparisce, buh. Perché sono piccolino, Luca, sono piccolino. Tipo Carimelo, avanti Luca, mi ascolti adesso. Piccolino, pure io sono piccolino, sono 1,80 quasi, 1,78, dai. Io sono 1,98, tutto qua. Ma Graziano c'è Luca, no? Graziano c'è anche, sì, avanti Graziano. Però sto usando l'aria solo, riprenditela tu là, dopo entro. Avanti, sono Bacchi, riprenda lì. Ciao Luca. Io solo sto facendo Marino, dunque non può parlare. Deve stare in stand-by. Storia, vai. Caspita, andiamo bene, andiamo. Bubu. Quanto siamo? 12, 13, 14? Sì, 24, 24. Se ride per il mio solo lascialo stare, poc'anzi lo ascoltavo, ma quando stavo facendo il mio solo non l'ascolto. Siamo in 25, sto avanti, Bacchisio. E mezzo siamo, 25 e mezzo. Così. È così la pressione. E via. E dunque, no. Quindi di giù, visto hai il pistole. Ci puoi mettere il traliccio più voi, Non qui c'è niente nessuno. Puoi salire 30 metri, 40 metri, 50 metri. Puoi fare quello che vuoi, non qui c'è niente nessuno. Un altro motore, ascolta. Andiamo sulla 27, fa la cortesia, io. Io il 27. Vuole sulla 27, dai. Aspettate un attimo, io sto andando a prendere la signora, ci sentiamo dopo, dai. Ok, dai, sulla 27, Luca vai sulla 27, dai. Bacchi! Bacchi, signor. Grazie, grazie. Grazie, no? Mia moglie sta facendo l'aerosol. Ah, ma non puoi entrare sulla 27? No, e non qua, il tavolo è impegnato, c'è la macchinetta dell'aerosol. Allora, veniamo qua, dai, Bacchi, rimaniamo qua allora, dai. Avanti, Bacchi. Sì, dai, non c'è proprio nessuno, modulando stanno, Bacchi. No, nessuno sta modulando. Non mi ascolti nessuno, Ma Luca, arriva, sparisce, boh. Ma a te già ti ascolto, un po' bassino ma già ti ascolto, che siamo leader, poi se sono stato, a Luca intanto un po', arriva forte e poi va via, non lo so. No, Luca sta facendo forte, esce forte. E allora non lo so, qui arrivava tratti, forte e basso. Va bene, Graziano, avanti. Luca, mi prendi. Vediamo un po', Graziano, ci sei. Sta organizzando il menù per domani mattina, Luca, Graziano. bene, adesso ti ascolto bene, sono entrato in camera da letto. Bene, adesso stai arrivando forte, Luca, eh. Una bella modulazione, avanti. Sì, ho detto che sono entrato in camera da letto. Ero lì vicino alla stufa adesso, dai. Qua c'è un po' più freschetto in camera da letto. Sì, almeno rimane bello fresco, bello, carino, dai. Già va bene. Avanti, Bacchizio. Ma Luca, non di camera da letto. Basta prendere un cestino, ne porti un cestino di calore dentro, Luca, e ti riscaldi. Dimmi, però mi senti, mi. Ehi, mi senti, vero, mi? Sono Bacchi. Come dire c'è un Bacchizio, caldo? Dimmi il tuo e basta. Cosa c'è un Bacchizio? Questo tempo, all'era del 1918. È entrata nel... Sì, no, lo faccio perché ti chiama anche Tore, siamo Bacchizio, no? Così. Sì, Luca Bacchizio, vada detto. Dammi il tuo e sto sempre bene. Tore, non ce ne sono, signore, facciamo tutti i poveri. E va a combinare pure. Oia, vai Marino. Sentito Bacchizio, Luca. Dammi il tuo e trattami bene, avanti Luca. Sì, beh, in effetti sì, sono d'accordo con te. Dammi del tuo e trattami bene. E bisogna fare così. Non c'è niente da fare. Tutto qua. E allora Bacchizio ha fatto hai oggi, no? Ah, oggi ho già fatto, c'era il sole, Marino. Ho già fatto. Ho passato il motorizzatore. No, no, la moto zappa, il motore giorno ho acceso, ho portato la moto zappa. E le palle, perché stava crescendo l'erba. E se no, se domani piove non potevo fare niente. Oggi ho approfittato dell'occasione. E ho fatto quello lì. Capito? Bisogna lavorare quando c'è il sole, quando c'è la pioggia sta dentro casa. Esatto, io ce la fa del lavoro, ma non faccio nulla. Sto tenendo a tagliare l'erba, ancora aspetto. Perché tanto se taglio può ricrescere, piove e così via, dunque no, non mi conviene fare niente, aspettiamo. Aspettiamo quasi un'altra settimana, se calma, avanti Luca. Dai, mi assento 10 minuti così, mi sto adesso alla doccia, mi devo vestire, dai, è freddo, a dopo, dai. Ok Luca, ti stavo dicendo, quando è la festa di Giovannino? È a aprile o a maggio? Mi sa che è a maggio. A maggio? Sì. Al caldo, no? Quando si inizia a fare il caldo. Esatto, ok, dai. Vai, fate la doccia, già siamo qua, dai. Io faccio le scale, sono arrivato, capito? Va bene, noi siamo qua. Ho tutto pavimentato, già terminato, no? No, stanno mettendo il pavimento adesso. Hanno fatto la piazza, adesso stanno facendo il bordo, stanno mettendo i pavimenti. Adesso non so come si chiamano quei pavimenti, Mari, quelli che mettono in città, non so che nome abbiano. E ho capito, quella anticipo, quella quadrata, là. Ho capito, ah, meglio così, là. Ma sono a buon punto, sono, dai. Come si chiamano quei pavimenti che usano in città, quelli grigi, o che nome hanno? Sì, ma Mattoccioni, mi aspetta, chi se lo sa? Bravo, bravo, infatti abbiamo fatto qualche anno al comune, Io faccio la manovale e qualche matone l'abbiamo messo. Bravissimo, proprio quelli, sì, pietrini. C'è quello nei borsi, grigi o rossi? No, noi nei marciapiedi abbiamo fatto lì in via Napoli, grigi comunque, grigi. Già va bene, dai. Andà bene. Ok, avanti, Bacchi. È qualcuno giallo per gli invalidi. Come? Ho detto, è qualcuno giallo per gli invalidi. Esatto, ho capito, sì. E vabbè, quello ormai è obbligatorio, ho capito Luca. Quello è obbligatorio, è dappertutto così. C'è la differenza del colore. Bene, meglio, avanti, va chi? Ci sono anche quelli rossi, quelli non vedenti che hanno il canale, che passano il bastone loro, che camminano dentro il bastone dentro il canale. Cioè, quelli che penso a Santa Maria di stiamo facendo quello che vuole. Sono gialli per i disabili e basta. No, io quelli lì, Bacchi, non le conosco, No, lo sai, non ci ho fatto mai caso, quello che stai dicendo tu. Allora ti dico, guarda, via Roma, tutto via Roma, c'è una parte, c'è l'altra, c'è quelle mattonelle lì, vicino al muro. Non ci ho fatto mai caso, sinceramente. Sinceramente, già lo sai, io passo col camion da Roma, no, ma non ci ho fatto caso. Avanti. Non so se ad altre parti non mi ricordo dove l'ho visto. In vari posti della città ci sono, che loro camminano, diciamo così, col bastone passandolo per terra e sanno la direzione che stanno andando. Meglio così, dai. Era ora. Bene, Luca, stai facendo la doccia, sì? Luca è già sotto la doccia, sta scendendo già l'acqua, si sente. Bene, merita, Graziano. Siamo in attesa, benissimo, siamo solo insoliti. Tore arriva subito. Dunque, le è piaciuto tutto, sì, a Tore? Era già abitando lì. Ma sì, già abitando lì, salve. No, è bellissimo, ti dirò che è meraviglioso. Per il valore che gli ha sparato, se lo vale molto di più. Molto di più si vale di quel valore lì. Sono 4.000 metri di terreno. Tutto pieno di alberi di frutta, di luce. Ci sono 4 alberi di oliva di confetto enormi. Quest'anno ne avevano a sacchi per la vita. E poi c'è un po' di frutta di tutto. Ma speriamo bene, dai. Speriamo bene. Dunque, però, da quella cifra che troverete, più o meno, è sceso un pochino, no? Stasera mi ha detto Tonino, dice, da telefonato, può scendere ancora un altro po'. Da quella cifra che tu mi hai detto? Ia. Sì, a lui gli ha fatto 6, mi sembra. O 6,50, non mi ricordo come ha fatto. E forse scende ancora qualche cosetta. A me lo si dà, speriamo bene. È l'unica soluzione di andare in banca e chiedere. Se no si deve fare come ho fatto io, o si ipoteca quello di Sassari, dove abita. Si fa l'ipoteca ciccia per vincolare quello lì, capito? Se no glielo danno. Facciamo quello lì, glielo danno subito, glielo danno. Se va dove sono andato io, glielo danno a occhi chiusi. Ma se lui prende anche quei 12-20 divisione, i prestiti della TV. Bisogna telefonare anche qui lì a vedere un po' cosa hanno di mangiare. Esatto, se non va lo porto io, se vuoi lo porto io dove sono andato io, su in via Umberto. Parecchi colleghi miei l'hanno preso su e si sono trovati molto bene, capito? Allora, devi parlare con lui, magari secondo dove va lo imbabbaucano, perché non è avviso, non è molto attivo. Ok, beh, dopo già ne parliamo in verticale, già, se in caso sai con me oppure io lo chiamo, l'avverto, vai e trova la persona e fa un preventivo, secondo che cifra le serve, capito? E non c'è nessun problema per quello. No, se non c'è non ci parla, ci può andare. No, perché anche alla figlia c'è aggiunto, e questa sì che è una campagna, non quella che abbiamo visto prima. Ma non posso immaginare, io a lui ho detto qualche cifra in più, però non te ne penti, è sempre una caspita, sai, un valore pazzesco. Poi dove sei vicino a casa, sei a Sassari, dunque non c'è nessun problema, capito? È tutto giù, se va così è un po' lontanino, non è molto lontano, comunque lontano, a verla io quella lì, guarda, avevo fatto 13 a verla io. Infatti la figlia ha detto, qui si può venire a capire da Latte Dolce, è vicino, si può fare una passeggiata, e poi una volta, due volte, poi si stanchi. In bicicletta, poi la sera al fresco si fa una passeggiata, già fa bene camminare, Bacchì, fa benissimo. E poi dice tutto, in campagna c'è così, tutto meglio. In estate lì, ripeto, tutto quello qui c'era un fresco meraviglioso. Ci sono tre una vicino all'altra, enormi. Sotto rimane buioso, oggi c'era il sole, e sotto si entrava un po' buio. E poi una volta entrato già si diverte anche lui, piano piano, incomincia a usare l'esplattore, si prende la motozappa, magari ce l'ha già, e così via. E già si diverte. Piano piano. Il fatto di questo mi sembra che gli ha lasciato immobiliata, con tutti i mobili che ci sono dentro, capito? Tutto l'arredamento gli lascia in prima casa. Figurati, vabbè, non le conviene portarselo via, quasi mi vado. A lui conviene adesso, piano piano, chiede già i preventivi, poi avverte, appena scade il contratto, l'agenzia, fai subito il compromesso, la racconto così lo blocca subito. Infatti. Perché lì si lascia i mobili, non penso che sia un affare anche per lui, sono lì la sindaco per i mobili e poi per i primi ci mette anche l'acqua l'acqua di città, l'acqua del comune. Bacchi un attimo, sono al telefono. Preto, mi sembra che sia anche l'acqua del comune lì. Sei al telefono, Bacchi un attimo, non prende, mi sta richiamando, va avanti. Stai chiamando? Sì, perché sto qua giù e non ricevo bene, mi sta chiamando, rientro subito, vai. Vai, ce lo so. Beh, Bacchi. Grazie, finito, vai. Adesso no, a mia moglie la stavo facendo l'aerosol, gli preparo la macchinetta e lì se lo fuoca. Ecco, si prepara allora. L'ho già fatto, gliel'ho preparato, se l'ha fatto, adesso gli ho piegato la macchinetta e tutto a posto. Ma tutto sistemato, benissimo allora. Benissimo, grazie. Allora, tutto bene? Eia, eia, con questo più forte mi sento. Sì, è abbastanza forte, mi sento. Ma hai cambiato il radio? Ehi, questa è quella fissa. Che è grande quanto la mano. Buonasera. Buonasera, avanti. Avanti, che la buonasera. Buonasera, signor Bacchisio. Buonasera, signor Marino. E buonasera, signor Graziano. Il barbiere, eccoci qua. Allora, signor barbiere, buonasera. C'è da fare uno shampoo per i capelli a Graziano. Avanti, Graziano. Ehi, you. Meglio mi senti, John Mari? Con questo va più bene, là. Grazie. Oh, ma io ti sento bene anche con quell'altro. Anzi, dico che con quell'altro sono più chiari, più chiara la voce. Questo era un microfono e purtroppo è così. Già va bene lo stesso, là. Cattafuglia, va bene, cosa vuoi presente? È anche troppo. Vedi un po', signor Marino, avanti. Marino si è sentato di Marino. Allora, ma chi? Cosa ti racconti di bello? Dai, vai, andate a vedere l'attore con la questione. Sì, siamo andati ancora a vedere la questione, che ci è piaciuto da morire. Ci è piaciuto da morire. Adesso se ne racconto con Pedro Lombardi. Quello che conta molto, Quando una cosa piace si fa qualsiasi cosa e si deve riuscire all'intento suo. Mi fa piacere che gli piaccia, dai. Speriamo che. Ma se in mano a quelli là, finché non finiscono, non può farci niente. Insomma, io adesso lui deve decidere lui cosa fare, cosa non fare. Aspetta un attimo, mi troviamo il telefono. Vedrà lui, va, vedrà lui. L'importante è che sia piaciuta, che riesca a fare tutta la questione come si deve. Va bene allora, avanti, grazie. Ehi, ma chi vive a casa, così. Ehi, c'è la casetta, se ne può dare anche la figlia a abitare lì. Tranquillo, perché è anche grandetta quella casa, mi sembra che sia piso 84 metri, no, ma chi? Non lo so, se vuole mettere tre camere di cucina. Ma se la prende, solo se ne va a abitare lì. Dov'è? Attaccato da signor Carta. Già lo conosce il signor Carta, già, Bacchi. A chi? Questo cavolo di telefono sono parlato, ci siamo partiti. Cosa detto, Graziano? Che pensi per il silenzio? Dov'è? Vicino a quella palazzina dove abita il signor Carta, che c'ha frutteti. Lì è quella che è lì. Non so se tu conosci la via di Sant'Ezzaro, la conosci di quale che la sera. Quella che giri dopo la chiesetta e vai dritto lì. Ecco, la chiesetta fai lì. Ma lì sono neanche un 800 metri che non ci sono. Dalla chiesetta, dopo questo terreno, un 800 metri non ci sono. No, è una bella zona lì, già ho capito già. Chi è? No, c'è anche lì su in alto, Oh, ci abita, adesso è morto. Quell'ex pugile. Andrea mi sembra si chiamava. Oh, non so io, allora, all'inizio, a fianco a questo terreno qua, prima di questo terreno c'è il Puglio, l'idraulico, che abita con il signore a casa da me. Poi c'è questo scopo di terreno trasprendendo, a fianco c'è una villa, e di dubbio. Poi più avanti c'è quello di farmacista, la villa grande, enorme, e un po' farmacista. A destra, a sinistra c'è il decoratore Perella, più avanti c'è il pompiere, più avanti ancora poi c'è il maresciallo dei carabinieri, a bordo, e poi c'è il cappellone, e sono tutte ville. E beh, un tipo con i beni lunghi, Ivi, sulla scendendo, andando da qua, sulla sinistra, così è. Esatto, il professore, quello è un professore di giapponese, quello è un professore di giapponese, prima di quello lì, grazie, un 100 metri prima di quello lì. Già ho capito, Don Veggia, già lo so, ho capito, già ce l'ho presente. Gio' Marie, dove ti ho detto stamattina che oggi qui c'è un tipo con i beni lunghi che mi pareva il primo tipo. Oh. Lì vicino, attaccati i tipi, da. Speriamo bene, almeno ci riesce. C'è un'uscita e... almeno si respira anche un po' d'aria pura, da zona buona, per cui si sta bene lì. Bene mela, riprenda signor Bacchisio. È bellissimo, sono completamente in terreno, è un miliardo. Quindi c'è un piazzale fatto in cemento, ci sono 300 metri, 150 metri quasi di pavimento in cemento. Sopra c'è un pericolato enorme, comunque c'ha la lupa sotto al tavolo, pronto a morire. E poi ritornando al cappellone, grazie, l'altro giorno stava piovendo, per temporale, in strada lui andate a mettere in darizio, era un putichino, non era c'era né un bello nulla, poi è stato lasciato, quando piove si mette da fare. Quando c'è il sole si vede a prendere il sole. Già lo so già, mi leggo di senna a Gio' Maria stamani. La prima volta l'ha già visto, una giubilata, un infrasmo, fu che era feuga. Perché sono passato il furgone, in quel punto era ristretto a passare, stavo camminando piano, miro, e vedo che si è arrombato al muro, mi ha fatto assuccare. Fu che feo. Tutto trazzurato, niente un bici tu. E perché in Africa, avanti, torna dai roghi, però ancora non sei disbronzato. Allora, stavolta la già di rubare Grassella, tutto trazzato, tutto bosciumato. Sai, tu mi hai tu, l'uomo delle lepi. Mi raggio tutto io, cassa, bebè. Buonasera, signor Gio' Maria. Ci vogliono, vero Bacchi? Attento, Gio' Maria! Bacchi! Bacchi, se non riprende, avanti, l'attento. Forse è tutto sulla sedia, sono. Cancia vuota, non cammina. Bacchi! Batteria ferma. E ti sento... sotto terra ti sento, gatta macchina, io carica questa batteria. E beh, lo puoi attaccare direttamente, parli. Se l'attacchi, va bene lo stesso. Non riprende, vai, grazie. Oh, signor Gio' Maria, buonasera. Poi, signor Tore, buonasera. Affitta beato che si sente questa volta, simile. Un po' tardi, ma meglio tardi che mai, diceva quello là. Come fa? Sì, già va bene. No, guarda che ce l'ho poco fa, sono andato a prendere la signora, ha detto che rientravo. E infatti sono arrivato. Ah, già va tutto bene, sì. È quello che conta, che va tutto bene la signora. Tutto bene, meglio così. Proprio tutta la sera con Graziano chiacchierato più o meno, c'era anche Marino, però dopo mi sono assentato e è venuta gente, mi se n'è andata pochi minuti fa e allora ti sa avere un po' chi c'è. E ho sentito a Bacchisio e a Graziano. Ciao Graziano, aiuto, mi ha già ripigliato avanti, se la bene l'aria so, Paoletta. E così è, vediamo se c'è Bacchisio, Bacchisio sta attaccando la batteria, fatto sentire gli erai a Tore. Sì, Tore, te l'ho fatto sentire poco fa la radiolina. Sì, e non era attaccata la radio so. La radio, quando c'era l'aria so, c'avevo la radiolina, non mi hai sentito. Io ti ho sentito, già si sentiva bene. E poi l'abbiamo provata anche ieri sera, l'hai sentita Luca ieri sera, arrivava a bomba a casa tua. Infatti, l'ho sentito sì, ha voglia. Allora, non ci devi lamentare, grazie. Grazie, Rubè. E chi ha ragione? La dito 1,68 e mezzo sono, quasi. Di altezza? Ehiu! Poi era di compreso, Paolo stava detto che è 1,68 to. Ehi, d'altezza, ha inteso io. Ah, così è. Ma noi non stavamo parlando di altezza. E Marino, ma di tabacciarmi! Che c'è troppo alto, così. E poi so che c'è troppo alto. Ma riesci in giabatturi? Vai, Graziani, va bene, spero di visare l'esterna, per andare bene di andare l'esterna. Sì, quando sistemo usiamo l'esterna. Sì, fra poco fate un po' bello, Sì, la di chi fa se tempo vede non mi fa male chi stanca. Ah, così, allora meglio che passi tutto allora, che sei perfetto. Sono arrivato. Arrivato, sì, sono Bacchì. Sì, ho cambiato la batteria. Ah, la batteria. Adesso ci sentiamo anche più bene. Perché ti sei attorno per i quel ricchi, sì. Ore. Sì, sono qua, sono arrivato, sono qua. Quale sei arrivato, perché stavano tutti parlando male di te. A potendini, Bacchi. Mi ha fatto io. Sto parlando male primo da Graziano, Gian Maria, Marino, tutti. Io adesso mi sto facendo i fatti miei, ma per regolare i tuoi, Emmi. Tu la sai regolare, Eddie. Se non va bene da animare, peggio. Ma Eddie. Ehi, Gian Maria. Chissà, già lo sa, già dimmi lui, parola che non intendo a dei secondi che la figo. Infatti, è così. C'è un poco, canto me la futo a me. Avuto, e tante chi dà ragione me. Compreso le Bacchì. Sì, così è. E così, capito, hai. Non sei tu nulla a Tore, no, noi siamo andati in campagna. A chi Tore agguanta, ha le spalle e un bel largo, capito? E resiste a tutto, resiste Tore, capito? Per quello che se ne frega, capito? Ah, così è. E no, sai cos'è? Non è spalle largo, no. Mani largo, Mani largo, non dirì, ma chi? Lo direi mani larghe, così è tu. Ma se vede da dardo, così non vede da trignu. Vabbè, se tu dici così tutto va bene anche per lui. Avanti, sei bello di Graziano. Eia, per carità. E oggi cosa abbiamo combinato, signor Bacchisio? Zappata abbiamo? Abbiamo zappato, signor Graziano, zappato alla grande, non ho zappato, molto zappato, non sto zappato, è diverso dalla zappa. La zappa si fa andare con le braccia, vedete, quella là cammina benzina. Ma non fatichi, che ho molto zappato anche io in campagna, non ti preoccupare, con la molto zappa e con un molto coltivatore. Va via la busta, si bussava pure a me. Ma il motocoltivatore è pesante, non l'ho usato tutti, ho detto la moto zappa, perché la moto zappa me la gioco come voglio, questo motocoltivatore è più pesante, ma l'hanno. Vabbè, si fa la terra più bene, più piano, più liscia, tutto come voi, però più pesante. Se c'è la moto zappa è un giocattolo, lo faccio come voi. E poi da un pezzettino devo fare dove sono le favole, perché stavo crescendo l'erba in mezzo alle favole. Se la lasci crescere diventa più alta la leva che la bava. Allora via, non passate il moto zappa, è tutto pulito, tutto in ordine. E così grazie, avanti, ce lo so. Infatti, fatele così, piano piano, è sempre andente. Anche io la pulivo le fave in mezzo, lasciavo lo spazio apposta, la distanza giusta per passare la moto zappa. E ogni tanto richiudiva una passata, entrava un capo e iniziava l'altro. E se no poi a saccarreggia la vava a bui. Invece quella fianco alle fave, quell'erba gliela lasciavo lungo le fave, da, per tenerla al fresco. No, io ci ho passato la moto zappa, l'ho pulito, poi l'ho messa a solcatore e gli ho dato la terra sopra, gli ho fatto il solco. Ha fatto un lavoro con due servizi. Anche io quello lo facevo, però l'erba, quella vicina alla pianta, gliela lasciavo, che teneva più umido, capito, alla piantina della fava. Beh, passava meno aria. No, ho pulito tutto, prima ci sono passato vicino alla pianta, due volte è andato in ritorno, poi alla fine ho messo il soffiatore e ci sono passato in mezzo, terra una parte, terra l'altra, e io siamo andenti. Già lo so, già l'ho fatto anche io, un bel di voci, non sono lunghissimo, con tutto quello che piantavo in campagna tanti anni fa, allora non ne pianto più. Cane voce ne pianta. Pensa, se no se non andresti a comprare già uno. Allora, è tanto. L'ultima voce aveva piantato la baba. Tutta la campagna aveva piantato di baba. A quando fa la bella tenna la si tirava lì appizzicata. Allora chiudo. A zappare un buco, ma quelli è poco sono veloci. Che è a fare la chiesa fannita, troppo buona era, ma magari poi c'è la cuppareggia. Se non si piglia la zappita era bianca, era essere coltiveggia, e dopo andai a cogliere. Sì, ti dici che la terra è troppo in basso. Dov'è in alto? A chi c'è un pezzo e poi bisogna i gradoni. E ti poni a parte bassa e ti vedi a livello di pittorra e dunque lascia la terra. No, da me già è tutto in pianura. Ah no, ne ho la metà in pianura e la metà a gradoni, capito? Ma i gradoni sono larghi, quanto fossi, 7-8 metri, 10 metri, un gradone uno con l'altro. E allora voglia piantare. C'ha da me, anche Gio Maria c'ha due graduni, così è Gio Maria. Sì, ma un gradone lì rimane per passaggio, capito? Ma l'altro no, l'altro lì, prima piantavo le favi in quel gradone, ma a quando sentivo io le cornacchie si mangiavano, anche la pianta si mangiavano. Allora da ultimo anno sono andata per farla e non ce n'era nemmeno una, c'era la buccia attaccata, ma le fave proprio non ce n'era almeno una. Dalla volta ho detto, boh, fave me le compro e faccio più fette, no, senza fatica pure. E sono quel gradone c'ho io e non posso piantare in altri posti, capito? Perché sono troppi alberi per cui non va bene, ecco. Però ce l'ho due gradoni sono, sì, fa uno più dove piantavo le fave, lì mi sembra che c'erano 3 metri e mezzo, 4 metri, non c'erano bacchi. No, uno l'ho stretto, uno l'ho stretto, io uno o due gradoni. Uno sarà 8 metri, 7 metri, 8 metri, l'altro sono 10 metri. Capito? 10 per 35 metri di profondità. E i gradoni. Lì ci pianto le fave, ci pianto. Sono solo fave o piselli li pianto sempre. Perché c'è un filare di piante di frutta. C'è le mele lì. Tra la mela e il muro ci pianto la roba. Ma sotto l'albero non ricordo, manco l'ombra. Ma io non pianto più niente lì. Ci sono. C'erano due alberi di ciliegie che si sono secchi. E sì, queste piante di susine, le moricche, anche quelle si sono secche, quel gradone sopra, capito? Ci sono rimaste due piante di fiche solo e basta, capito? E per cui lì taglio solo l'erba e basta, non ho, e qualche volta ho molto zappo pure. Quello solo c'ho, l'altro è stretto, il gradone, e per cui e quello ho fatto a una stretta e sangue scendo da lì, ho capito? Oppure passo in mezzo che ho la stretta fatta apposta, che posso passare con molto coltivatore in mezzo tra un pezzo e l'altro, capito? Però su passo solo a troncatura bassi i chivi, capito? Quando non faccio niente, altri chivi e così ben preso arrivi a sopra. Il resto è tutto in pianura il mio, il parziale già l'ha visto, tutto in pianura, per cui va bene, va benissimo. Io pure quando molto zappo, va da solo molto coltivatore lì, va solo a una parte, dopo ci sono gli agrumi, no, mi tocca girarmi, i gatti a tirare, per carità, e ma a primavera il vostro la vista, ai lati bassi, tutti nel taglio, in modo che poi si abbassa tranquillo sotto, ma chi? Che conviene, no, bassi no, ma uno si mette in giro e si passa, e va bene anche a raccogliere la frutta, perché se poi porti alta, devo lasciare, invece no. Si vede che uno ci passa sotto, si abbassa un po' e passa. E più tagliarli la cima, devo farli crescere in cima. Se ci vuole la scala per quella la frutta. Allora io quest'anno le ho abbassate. Se stavo andando in aria, hai sto frena che ti taglio l'aria. E le ho fatte così. Quei passi li ho tagliati, quelli mettevo in ginocchio per passare, sto salando, taglianili. Hanno svuotato e quest'anno sembra c'è veramente un po' di frutta. Fiori adesso c'hanno. E poi, vedi quello che ho fatto vedere a Torre oggi, un biliardo, Gio Marino. Ma, già ci vediamo, Bacchi, una giornata adesso a primavera che fa belle giornate, e un giorno che sei libero, già ti porto giù e così che vediamo un po'. Anche un consiglio anche da te, potrei anche ricevere, eroe. Sì, dai, un giorno ci mettiamo d'accordo, vediamo uno e l'altra, capito? Vediamo uno e l'altra. Si può tirar fuori, uno critica, e poi facciamo così, uno critica l'altro. E poi vediamo se tutto va bene per Torre, vediamo anche quella di Torre, là. Quella di Torre è un bijou la di Torre. Adesso vediamo un po' come ne escono fuori le cose. Piano piano si decide. Avanti, signor Tom. Sì, infatti anche io partecipo per questa cosa. Partecipo anch'io a criticare. Ah, portiamo anche a testo, ci mettiamo d'accordo, va. Però a primavera, una giornata bella, ci andiamo e ci facciamo una bella passeggiatina, cosa ne dici? Sì, perché no, primavera, sperando sempre che abbia anch'io partecipato a quel coso, quello che mi ha fatto vedere stamattina Bacchisio. Io te l'auguro che tutto vada bene e riesci a ricevere il tuo. Che almeno è tutta un'altra cosa, avere un'uscita fa veramente piacere, dai. certe molte, molte cose in casa non si possono fare, mentre in campagna puoi fare tante altre cose. Così è Bacchino. In campagna lì da Torre mi sembra sia anche le cose barbecue, non lo so. Barbecue c'era, non ci ho fatto attenzione se c'era un barbecue. E se no basta prendere un coso, un scaldabagno, tagliarlo in due e il barbecue è fatto. Che ci sia roba da mettere sul fuoco, poi le lunghe si fanno. Che poi guardate, visto che mucchio di legna che c'è dietro la tettoia. Sì, c'era anche il coso per fare una specie di barbecue, una dambulata gli adami dai. La prima cosa che giù vi su. Anche la dambulana pure andava, che male è la dambulana? Oia, benissimo va, ci mette i piedi e andava la dambulana pure. Oh, è già completa, una graviglia in alto, Aspetta, andiamo a Naburu, mi pare che sia graviglia. E chi mi l'hai vista? Sotto quella tettoia era. Non sapevo, e allora già sei a posto. Allora stiamo andando già a rostire Gio Maria, la graviglia è pronta. Ma si può fare tutto, costa poco passare lì, certo, legna ce n'è, per cui ci vuole appetito e buona volontà. Infatti, poi Barurresu la sacciata. Fa cucinare, fa un cuoco, fa se graziano, avanti graziano. Vabbè, mi ne hai bucato la parola alla bocca. Anche io devo venire a criticare e a cucinare. Uno chef vivo, barbaccolo, Tori. Io ero greco. Tanto, se non andiamo tutti un pari a criticare. Allora, va. Ma già è bella, già io già lo so dove è quella zona lì. Già è bella quella zona. Già mi piace anche a me quella zona lì. Vabbè, dai, quando sarà fatto tutto, vediamo cos'è sciaffura. Piano piano, se sta pressa. Con calma si fa tutto, vero Gio Maria? Cose fatte in fretta escono sempre male. Per cui con la calma, piano piano, lemme, le cose escono sempre ben fatte e va tutto sempre bene, quando sono fatte bene le cose. Va. Speriamo bene allora, va, speriamo bene. Signori, io però vi devo lasciare, chiudo, che devo fare cosa. Per cui ne approfitto, io vi ringrazio della piccola chiacchieratina, anche se breve, fa sempre piacere, almeno la sera. Durante il giorno è un po' difficile, però la sera quando ci sentiamo penso che sia un piacere fare una chiacchieratina. Per cui ne approfitto, ciao Tò. Saluto di casa e a domani se coincide. Altrettanto Bacchisio, il tuo saluto di casa Bacchisio, a domani. E a Graziano lo stesso. Ciao Graziano, riprendi tu e fai girare. Io vi ascolto dopo un pochino, ok? Ok, buonasera, buon tutto. A domani, ce la risentiamo. Saluti in casa. Vai Tore. Ok, ciao Gio Maria, ci sentiamo alle prossime, dai, se coincide domani, anda bene, riprendi Bacchi. Ciao Gio Maria, buona serata, buon pomeriggio e buona cena, a sentirci domani, ciao, capito? Grazie, c'era anche il cappellone che stava vendendo, però non lo so adesso se ha deciso di vendere, lo sai dove era la campagna del cappellone tu? Ehi, te l'ho visto la prima volta appoggiato al muro della cassola stradina, c'è dalla campagna di quello. Si chiama Piero si chiama, il cappellone si chiama Piero. Quello sai chi è? Quello che c'aveva l'edicola in Via d'Italia all'ospedale. Già lo so, già mi è venuto a mente dopo già che... Poi l'ho incontrato lì al bar Grasella, un giorno mi lei la Baitenni da B da capo e poi mi è venuto a mente che era quello lì. Già lo so, già. Lo conosco perché e io ero lì al policlinico ricoverato, c'ero 2 anni e c'era un amazzone e c'era andati all'edicola a burro. Ecco, la stavo vendendo una volta, poi l'altra volta l'ho chiesto se me lo vendeva a me, ma ho detto no, lo devo regalare, per regalarlo a un altro regalava a me, ed è così. Non ci fa niente, visto sto abbandonato, tutto gli alberi di frutta che c'è li sta rovinando, che ogni tanto mi taglia un pezzo, non c'ha testa, ecco, non c'ha testa. Ripeto, c'era questa piovenza di rotto col temporale, mezzo in cammino senza baracqua, era un putichino. Già lo so che è mezzo furato il capo, è uscito. Già lo so già. Ehi, oh yeah. Per carità, vabbè, però lì, lo sai cos'è, c'ha lo svago, e si svaga così, e si dai cosa fatti. Ci dice un giornale, Ghibi, la grande moscia, la Suleta, è andato in tizio, insomma, ma perché prima la Suleta aveva i pantaloni, la mia, come andava ella, Ghibi, per la moto zappa, adesso per la moto zappa nuova, questa è la casetta. Tutta la testatura di campagna, e non le tratta, avete tutto abbandonato, qualche colpo di zappa è così, la stai in alto e la salvarà, non fa di nulla, e gli manca qualche lunga, ha perso, capito? Sì, ma è uscito pure di sé oramai, e non avrà fama in nulla, ma si la rilassi qui, si la sbagliato nel prasmo, pingaretto va via e nanta, ha detto vabbè che in campagna, cazzo, ma lo dico, boh! Sì, sì, uè, gruppo un favore c'è vita, ma su colpo sopra, la camicia, non ci porta mani che costi e non ci porta tutti questi pesanti. Va, adesso mi avvisi, va. Non so, cogliè, Tore, tu non lo conosci, no? Può darsi pure che lo conosca, ma se non lo vengo in faccia no, non mi rammento. Per riconoscerlo non devi mai da me, e pensare un bel da reddo. Sicuramente già lo conoscerà anche tu. Io al primo impatto, la prima volta che l'ho visto non l'ho riconosciuto. Poi che l'ho visto al bar Graziella, una di... a distanza di poco tempo. La riconoscita dare bene, però mi era bene, la bella cappa in faccia. Ed è venuta a mente che era quel tipo dell'edicola. Ma però, ma si vede lui che va a casa rotellina e pussata. Va un po' più inquinante, ma non è venuta però. Mi pare Giuseppe Agata, il barbone che anda in giro, il 131, lo vedi, i lavuti, tutto pieno di roba, con il cappello a visiera e va lo zaino. Chissà si chiama Giuseppe Agata di soprannome. Chissà ha lavorato conmigo da Marcello, anni e anni. E la regavo l'umagnaio quando stava in casa di mamma. Levava un chilo di maccarrone, tutti si mangiava, però mi dava i soldi. A chi mi aveva detto, non è che me li cucini i maccheroni, anche in mezzo romano. E ti do i soldi, e lei già se li cucina, quattro e un chilo di l'arrigo. Tutti se li mangiava. Chi su, Piero, quando ero un pastore, vicino al coso, che è il vigliatore, la voce del vigliatore, ero un pastore, gli dicevo, Piero, ma perché non vai a casa a mangiare? No, io non mangio, io mi compro le mozzarelle, un panino e mi passo tutto il giorno. E se lei sa, travagliava al coso, all'Infis, la signora Bionda che passa qui, passa i cenni. E lei va via Lugani, detto Ghibi. E lei recava mangiare Lugani la signora. E lei credo che lui mangiava Lugani e si abbaidava. Ma dice, non è che vuoi che ti porti la porta asciutta anche a te, no, Piero. E io la signora aveva recato la vita porta asciutta. Ha detto la signora, dice, manco boccia in altro piatto, che sta mangiando, dopo un piatto a poco si mangiava. A chi che mangiava una via, chissà, non si vede pareggia. Sì, come quello che lavorava insieme a me, Giuseppe, Solo i panini lì, all'alimentare in via del Porto Toro si comprava. Affossati i panini, affettati, a chi si dà affettato e a chi si li bani. E un anima dice se gli facevo un favore se gli cucinavo un po' di pasta asciutta che era un po' di anni senza mangiare. E io perché no, già te la faccio. E così me la faccio, ogni anno mi arrigavo, un chilo di maccarrone ogni anno di pasta marina. Però mi dà bei soldi per comprargliela e cucinargliela. Questo non è stato assurdo il cappellone, cioè degli appartamenti affittati in via, questo è vicino al fuoco, via Fermi, cioè degli appartamenti affittati, in casa sua non c'è né luce, né acqua, né nulla. E a chi sta niente è fatta così, ma a chi tu pensi che ci travagliava con me, se lo occupava nulla lo stipendio lo prendeva, mi da marcito. Chi l'ammacciava? Chi sono i vilà ammacciati? Tu se lo vedi, una lì l'ha giudito, il magazzino. Ah, io che ti posso una doccia, ti porto il bagno schiumato, tutto, già c'è la doccia qua. No, no, beh, insomma, tra una cosa e l'altra, l'ha già convinto. Ha cominciato a bucare roba. Maglia, contro maglia, golfo, contro golfo. Montati di sotto, lunghi, tre pagine di montati di sotto, va via. Io frattempo chiedo se non la vedi, l'ho bruciato tutta la roba. A chi mi l'ha regata la casa, è la roba pulita e nuova. La roba mia, brucia. Sì. Sono fatti così, sono fatti. Fate lassate, so. Avanti, so. E purtroppo questa gente se la vede così vuol rimanere così, non la puoi cambiare, ormai è abituata a stare così e così rimangono. Se tu lo vedi questo, guarda, l'ubiaco, ma con la gente la prepara, pinghiroso, trovi pinghiroso, dice che la sua non c'ha né acqua, nulla. C'è andato Vittorio, uno che abita vicino alla campagna, alla cabina lì che abita Vittorio, e lo accompagnava a casa sua con la macchina. E di casa sua è un montinaggio, non si comprende nulla di questo appartamento. Purtroppo, cosa viveva? Se è uscito di gabbo, questo ormai no, non sa più, avrà pagato più una bolletta di Eva, una bolletta di Ruzzi. Ma chi se non va più nulla? La grande mostra la subita, io l'ho già conosciuto da poco, una ventina d'anni lo conosco. Però dice la grande mostra la subita è uscito del capo, non c'è più in senso. Infatti sarà così, sarà, ma boh, si sa, ma ti bisogna comportarsi. Non è già fatta, invece, tutto il capo, te lo tutto si è accabbato. Ma si va sotto a parlare un fumo però, i tre virai a pagare una femmina davanti a pulire la casa, a pulire la luce elettrica, no, infatti sono i romincini, sai, come si fa i romini lavorano da rimossi, è bellissimo a farlo in casa. Ma chi mi sta allontanando un attimino? A testa, capito, è logico si comporta così. Ah, chi ha ragione, Gocca, chi si terrorizza in Diveu? Lì alla Grania, dove c'era quel bar che hanno ucciso, di fronte alle scuole. E dove c'era scassellato? Sotto il tetto di quella casetta tutta diroccata che c'è. Vedo la sera, entra la ghibi, la cancelletta sta a sopra la gabbiglia, sotto il tetto, abita. E trovo il paralizio, che me lo diceva Edu, e chi vive tra me, è della mamma, la mamma è morta un paio di anni fa, aveva la sura. Ma ci vuoi chiedere il portatore se da poco, se tu ti bagagli appresso. E c'ha tutte quelle zaine appresso, perché lui va per le campagne in giro e raccoglie asparagi, cioga, cucù, e poi si la vendi. Da voi il sassare che andrò a vedere sta sempre accogliendo i cicchi. Fa un roccio, un ciuto. A me l'ha fatto vedere lì in piazza d'armi. se le mette tutte dentro la busta, poi ne sgrana il bel poco tabacco che c'è in un'altra busta, si piglia le cartine e si va a le sigarette, una rima di te, e le vuoi una te la faccio e ne va alla cabigitene, ha già un pacchetto fuma di ora ci pigliano la di esse. Carraggio fumani, dove tu sono, siamo visori negri che fanno il suo travaglio. L'africano passa da davanti ai loro dallo circolo, visori cicchi, deve raccogliere, poi raccogliere da riva. Sì, se sta andando all'africano, burino, che io mi devo dire, che macciarono a fare cose. Prima ne vedi a due, a vai uno, ogni mattano si fa lui per l'illustrazione, e tutti i bordici, si raccoglie tutti i cicchi. Resisti di fumare, fate chi sei asco, avanti to. Purtroppo che non ho vanino da si arrangiano con chi so chi fa, ma ormai questo si arrangia un poco, si accoglie la zea, gioca e altro, quindi. A voglia se si arrangia, piano piano. No, punto e punto, mica va, anda a banca a dormire lì dove c'è padre Manzella. Lì c'è un coso dove vanno a dormire i barbuni, cosa così. E chi mi dà zina, a mangiare e a dormire. Ecco perché io lo trovavo sempre un periodo in piazza d'armi. Dove c'è il monumento, salendo in via Mendola, lì, in quella piazzetta lì che c'è l'edicola. Io quando accompagnavo mia moglie dalla dottoressa sua, che è lì in via Mendola, aspettavo lì nel parcheggio, e lui mi diceva, e allora me ne parlavo e mi veniva a ragionare, questo che già si ricorda sempre di me. E tutte le volte lo trovo che se posso mi fermo e ci chiacchiero con lui, noi che non ci parlo. È intelligente già, solo che è fatto così. Non mi travaglia più per nessuno, ma mi ha detto quando si è il fatto che io avevo subito un bel di voce a rubare, che non travagliavo, acciappavo a rubarla, acciappavo. Mi invitavo qualche caffè, qualche altra cosa, burro. Ma già si arrangia chi su. Giuseppe, già si arrangia già. No, guarda che quando lavorava con me era un asino lavorando. Allora all'epoca le macchine le taglievamo a macchina, lo dovevi dire accetta a Marrabicco, lo dovevi dire tagliare le macchine a Marrabicco, un treno qui, ogni avvuzza. E poi però si è scassato e ha detto che non ci lavorava più. Gratis non lavoro più per nessuno. Come sta di tappato? Non dice di no, non ha però, ma non le rimbuccavo e se le mangiava. Dice lo sapevo lungo, lo sapevo uso. E dunque per forza devo andare a cercare, a brusare, a ginocchio, a ciocca, a una ciappa, a passare le rinappe a mangiare. Ah, che le dinate a virà ammacciate, mica ti so cos'è che non è macco. Se di là adesso si rammaccia, una di là giù di tutore, ma papà ti ho conosciuto, e lo penso papà, io di babbi ce ne ho tanti, a chi, cugliarini mi li affacci dopo in casa Zuglia. Certo che la vedo, ha già avuto un bel di voce a rubare, l'ha già avuto, allora che si fa... Vicino a Pintarello, chi si è attaccato, chi c'ho, apre un manzano un ghizzo a Bria. Ah, ciappava anche io, ciappavo. Ehi, a chi lo manzano andare a farsi la colazione? Ti credi che è macco? Altro che è macco, E se no molte volte si compra il mangiare lì, dove c'era quella rosticceria in via Pasco, l'ultima volta se lo comprava lì, lo mangia già pronto. Ehi. Certo, poveda, già, ma già si arrangia, ma paghi su, già si arrangia. Allora, io l'avevo visto anche alla Caritas, l'avevo visto un paio di volte. Da già, dico lui, un invece di bucare, da già, io mi danazzo, ne ho preso. Questo già ci va, già. E poi è in gamba, non ti credere che sia matto, non è matto. non la travagliate un vivo e preferi vivi i gusci e fatevi a me mangiare di un bel e di greppa mi se tu ci parli ti vemi che è da bici una birra a me è capitato tante volte e chiacchierando così ti faccio bisciare sotto dalle risate a che mezzo romano sì, ma andate così non abbiate così state per così vero Bacchi? Eccoci proprio. Bene, signori, io vi devo lasciare perché è arrivata l'ora per me del merendero. È arrivata quest'ora, io faccio merendero. Bene, ciao Graziano, grazie della compagnia, salutissimi, saluto la signora e ci sentiamo domani se tutto va bene. Anche per Tore, ciao Tore, buona serata, saluto la signora e buona carica, buona 144. E Pachizio se passa in QRT causa merendero. Ascolto Pinolino e poi chiudo. Ciao a tutti e due. Ciao Pachizio, adesso chiudo anche io. Buona cena, buon tutto, a domani. E se coincide, Tore vai tu, saluto anche a te, buonanotte e buona cena anche a te. Ciao, a domani Tore, riva. Ok, dai, anch'io... Va bene così, ci sentiamo Bacchi, a domani se coincide. Ok, ciao Graziano, e ci sentiamo, ciao. Ciao Tore, ciao, ciao Graziano. Ciao ciao a tutti, anche chi è in ascolto. Au revoir.